and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Oh, bentornati a Chiedo Asilo, che bello Drago, un saluto da K, lunedì. Un saluto da Drago, che bello K, è vero, sì, sono contento anch'io. Una nuova settimana all'asilo, che cosa ci porterà? Vabbè, di sicuro ci porterà delle nuove richieste di asilo nido e asilo politico. No, ma ancora, ma sì, non ci porterà, non lo so, dei giochi, delle costruzioni. Niente. Oggi, costruzioni. Solo dei disperati che vogliono venire qui. Solo distruzione. Vabbè. Sì, si sa che chiunque possa provare di essere stato minacciato per via delle sue idee, delle sue attività, può chiedere asilo a un'altra nazione. Sì. E in giro per il mondo ce ne sono tante persone in questa condizione. Vengono Abbiamo già sentito Drago, il bambino Gheddafi, che diceva che gli africani non possono chiedere asilo perché abitano nelle capanne, nei deserti, ti ricordi? Ma infatti adesso guarda che il caso più scottante di un richiedente asilo riguarda un cittadino niente meno che australiano, quindi niente Africa, l'Australia. In Australia c'è un regime. No, ma infatti guarda che il richiedente in questione è australiano, ma dice di essere minacciato dal governo degli Stati Uniti, quindi ma non chi è sto qua? È il bambino Julian Assange, la mente di WikiLeaks, insomma. Sì, no? Sì, spieghiamo ai bambini all'ascolto che WikiLeaks è un'organizzazione di giornalismo estremo, diciamo sì, extreme journalism, nel senso che si occupa di pubblicare documenti segreti sottratti non si sa bene come ai vari governi mondiali. Sì, e poi di recente Julian Assange e i suoi amici hanno reso pubblici migliaia e migliaia, ma veramente, sono 60.000 e passa, rapporti segreti riguardanti stragi, errori e depistaggi compiuti dall'esercito americano in Iraq. E quindi adesso la CIA gli sta le calcagne. È facile che sia così. Quindi lui, il bambino Assange, ha annunciato che ha intenzione di chiedere asilo politico. All'Iraq. Ma va, mica scemo, alla Svizzera. Alla Svizzera. Vabbè, si vede che gli piace sciare o sì, ma agli svizzeri gli conviene portarsi in casa uno così? Così come? È uno estremo, no? Ma scusa, appunto. Uno che scova tutti i segreti estremi di una nazione e poi li mette in rete, no? Vabbè, sì. E la Svizzera cosa fa? Guarda che di cose da nascondere ne ha la Svizzera. Lo so. Ne ha tante. Sì, infatti. Pensa a tutti i segreti bancari. Ma infatti da quelli. Sembra che la Svizzera possa accettare a patto che WikiLeaks non indaghi mai sulle sue banche. Senti cosa ne dice questa bambina svizzera. A casun di l'appro tradizionale da Biemeunda Crisun Vacances Einsatz e Facquei. Ma cosa dice? Ma per forza, Drago, parla romancio, è svizzera, ma parla romancio. Romancio, è come il ladino, romancio. Ma è svizzera. Romancio. Vabbè, dai, lascia stare. Piuttosto, perché non glielo diamo noi in Italia l'asilo nido politico? Al bambino Julian Assange, ma no, dai. Magari grazie a lui riusciamo a risolvere misteri insoluti da sempre, tipo Ustica, tipo il rapimento Moro, la sparizione di Majorana. Addirittura. Il sacro Graal, Drago, i Templari, gli Esseni. Asilo nido. Allora, qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. Un altro bambino che chiede asilo nido politico è il bambino Cesare Battisti, che è in galera in Brasile. Ex terrorista, ex scrittore di discreto successo e attuale richiedente asilo nido politico in Brasile. Infatti, ora è tutto nelle mani del bambino Lula, che è a fine mandato. Di solito, quando è così, i bambini presidenti fanno sempre dei gesti di clemenza, no? E allora adesso Lula faccia un bel gesto di clemenza verso il popolo italiano e non conceda asilo nido politico al bambino Battisti. Non. E se proprio vuole onorare un bambino Battisti, onori il bambino Lucio Battisti cantando in portoghese una delle sue bellissime canzoni. Tipo? I tre si biondi e calzetti azzurri, i tu calzetti rossi. Ma che calzetti azzurri! Sono le calzette che sono rosse, sono gli occhi. Ma che portoghese è? Almeno fa il genovese. È Belin, allora. Allora, te como de novo. Lucio Battisti, Lula Zau. на зал. Аз трея с лойра, сосолио с луис. Аз това с нея сверня с... И иду сесия с нас пуше с туас. Dos laranjas, mas vermelhas. Dos laranjas. Sembra russo. E le arance, laranjas. E ora, bambini, ricreazione. Oh, ricreazione. No, bambino Albertuccia. Mi rubi le battute, sono io che dico, oh, ricreazione. Che battute da rubare. No, vabbè, proprio... Io ero stufo di star seduto su quelle seggioline minuscole, i banchettini. Adesso finalmente mi sgranchisco le gambe. Vabbè, sgranchisciti pure le gambe finché puoi, perché dobbiamo fare l'intervista. No, e quindi... Ma no, fammi dire, oh, ricreazione. No, intervista. No, intervista. Ma ancora, ma ne abbiamo fatte 40. Vabbè, lascia ne perdere. Faremo anche di più. Siamo su una radio di giornalismo e i giornalisti sa che adorano le interviste. Drago, cosa? Siamo su una radio di news and talk. Vabbè, ma è uguale. Mi vuoi spiegare la differenza? Beh, news è news, no? Vabbè, talk. Vabbè, insomma. Allora, bambino Albertino, sembri avere la luna storta anche oggi. È proprio come rovesciata mai? La luna, guarda, è capovolta. Altro ragazzi, che storta. No, l'avete conosciuto voi il bambino Renzi? Beh, sì, certo, lo conoscono tutti, no? Adesso il bambino Renzi, il sindaco di Firenze. Beh, insopportabile, no? Ma come, un simpaticone? Appunto. Appunto cosa? A me quelli che fanno i simpatici per forza mi stanno un po' su, cioè avete capito, no? Sì, vabbè. Abbiamo capito. No, perché che siccome non posso dire parolacce. Come? Quindi da ora in poi vi farò solo intuire le parole, no? Okay. Sì, ma com'è che non puoi più dire le parolacce che l'hai sempre detto? Come cos'è questa storia? Per forza, mi hanno messo il parolacciometro. Il parolacciometro. E cos'è? Cioè, praticamente ogni parolaccia che dico sono 50 centesimi di multa. Mamma mia. Quindi certi giorni arrivo anche a 60-70 euro, Vabbè. E allora i miei genitori si sono anche incazzati. Cioè, si sono arrabbiati e mi hanno rubato di botte. Ma no, dai, le botte no. A fin di bene, eh? Eh beh, a fin di bene, certo. Sì, ma com'è che funziona il parolacciometro? Me lo fai vedere? Cioè, praticamente sembra un orologio normale, no? Ah, quello lì, bello. In realtà è un marchingegno che conta le parolacce, no? Solo quelle dette da me, però. Ah, ecco, quindi noi possiamo anche fare un concerto di parolacce. Se voi siete di fianco a me, dite delle parolacce, lui non registra. Proviamo a vedere. No, se vabbè, dico, magari meglio di no. Beh. E quindi, parolaccia dopo parolaccia, sono voluto accostare ai miei genitori una cifra folle al mese, quasi quanto danno in nero al babysitter asiatico. Ah, Jabau. Sì, Jabau. Lui. Ah, vabbè, sì. Vabbè, però stavamo parlando del bambino Renzi. Almeno tu parlavi del bambino Renzi. Ecco, lì mi sto sui marori, No, ecco. Ma figa, no? Ancora 50 centesimi. Ma di nuovo? Vabbè, hai detto un'altra parolaccia. Ma quale? No, no, se la ripetiamo. No, dai. Anche se non registra. Vabbè, comunque però, l'hai detta, l'hai detta. Sì. Beh, allora la colpa è del bambino Renzi, però. Ma cosa, Vabbè, lui che mi fa perdere la pazienza. Vabbè, ma cosa ti ha fatto? Allora, prima di tutto fa simpaticone. Vabbè, quello l'hai detto. Ma poi con me, quelli lì, tipi come lui, fanno poca strada, Vabbè, abbiamo capito. Però aggira, vedi che non dice le parolacce. È bravo, sì, è diventato esperto. Beh, forza di te, forza di pagare. Il grano lo cacciamo noi, no? E poi c'è sta roba nuova, no? Sta idea che ha avuto il bambino Renzi della rottamazione. Eh beh, certo. Cioè, lui vuole rottamare tutto, Io oggi sono arrivato con una macchinina nuova, no? Lui me l'ha presa e rottamata. Vabbè, ma si sa, si sa. Ma si sa cosa? È un pazzo, È un'ossessione quella. Cioè, lui è ossessionato dalla rottamazione. Scusa, è un bambino innovativo. Non ama star lì a cincischiare con i soliti vecchi giocattoli. Vuole rinnovare tutto. Tutto. Ma la mia macchinina era nuova. Forse non abbastanza. Bambino Albertuccia. E poi di che anno era la macchinina? Me l'hanno comprata ieri? Sì, ma l'immatricolazione. Ma quello non lo so. Vedi. Il libretto era nella macchina. E il bambino Renzi me l'ha schiacciato coi piedi. Ma. E poi non lo so. Io l'anno di immatricolazione non lo so. Sarà stata ancora Euro 1 o Euro 0 addirittura, quindi bisogna. Vabbè, ho capito, e lui rottama? Vabbè, in cambio cosa dà? Non lo so. Uno sconto alla prossima macchina che compro? Forse, è un'idea. Cioè, praticamente, se io vado in un negozio di giocattoli, mi fanno lo sconto? Boh, prova, tu vai lì e dici, vorrei usufruire degli incentivi sulla rottamazione del bambino Renzi, e vedi un po' cosa succede. Secondo me mi mandano a fan... Vabbè, non l'ho detta la parolaccia. Insomma, l'hai pensata però, quindi... Vabbè, quello è vero, devo ammetterlo. Però scusate, se per pensarle e dirle si paga la stessa cifra, vabbè, allora è meglio dire, no? No, dai, Rigoberto, le parolacce non si dicono comunque, eh. Eh sì, Rigoberto al giocolato. Ecco, 50 centesimi di multa. Ma come? Vabbè, battuta che non fa ridere, 50 centesimi di multa, giustissimo. Vabbè, se funziona così tu sarai schiantato di debiti, Chiesa! domani. E mandate le vostre calzette azzurre a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.